Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Che cos'è successo, Signore? Non ti era lecito abbandonare la tua croce? Infatti, se l'hai portata finché tutte le tue forze sono venute meno, finché il peso insostenibile del legno non ti ha gettato a terra, non era adeguatamente provato che ti era impossibile proseguire? Il tuo dovere era compiuto. Ora avrebbero dovuto portare la croce per te gli angeli del cielo. Tu avevi sofferto in tutta la misura del possibile. Che cosa avresti dovuto fare di più? Ma tu hai agito diversamente e hai dato una lezione grande alla mia vigliaccheria. Esaurite le tue forze, non hai rinunciato al fardello, ma hai chiesto ancora più forze per portare di nuovo la croce e le hai ottenute. Oggi la vita del cristiano è difficile, costretto a lottare incessantemente contro se stesso per mantenersi in linea con i comandamenti. Sembra un'eccezione stravagante in un mondo che ostenta la gioia di vivere nella lussuria e nell'opulenza. La croce della fedeltà alla tua legge, Signore, pesa sulle nostre spalle e talora sembra ci manchi il fiato. In questi momenti di prova inventiamo sofismi. Abbiamo già fatto quanto stava in noi. In fondo la forza dell'uomo è tanto limitata. Dio ne terrà conto. Lasciamo cadere la croce al margine della via e affondiamo dolcemente nella vita del piacere. Quante croci abbandonate ai margini delle nostre vie, forse ai margini delle mie vie. Gesù, dammi la grazia di restare abbracciato alla mia croce anche quando svengo sotto il suo peso. Dammi la grazia di rialzarmi tutte le volte in cui sono svenuto. Signore, dammi la grazia somma di non lasciare la via per la quale devo giungere sulla cima del mio calvario personale.